Un giorno mi sono sentita così stanca di amare che ho smesso di colpo. Non c'erano altri drammi nella mia passione, quando ho visto con quanta facilità si spezzava questo legame fatale. Mi sono stupita di aver creduto così a lungo nella sua durata eterna. Volevo abbandonarmi senza riserve a questo stato di esaurimento che non era privo di dolcezza. Mi sono ritirata in solitudine, un vasto monastero abbandonato e semidistrutto dalle tempeste delle rivoluzioni mi si è offerto come un ritiro imponente e profondo. Si trovava in una delle mie terre. Ho preso una cella nella parte meno devastata degli edifici, era quella in cui aveva vissuto il priore. I chiodi che avevano sorretto il crocifisso erano ancora visibili sul muro e le sue ginocchia, abituate alla preghiera, avevano lasciato il segno sul pavimento sotto il simbolo del Redentore. Ho rivestito la stanza con le austere insegne della fede cattolica, un letto a forma di barca, una clessidra, un teschio umano e immagini di santi e martiri che alzano le mani insanguinate al Signore. A questi oggetti luttuosi, che mi ricordavano che ero ormai morta alle passioni umane, mi piaceva mescolare gli attributi più allegri della vita di un poeta e di un naturalista, libri, strumenti musicali e vasi pieni di fiori. Il paese era privo di apparente bellezza. All'inizio l'avevo amato per la sua uniforme tristezza, per il silenzio delle sue vaste pianure. Speravo di staccarmi completamente da ogni sensazione vivace, da ogni ammirazione esaltata. Desiderosa di riposo, pensavo di poter percorrere senza fatica e senza pericolo i miei occhi su questi orizzonti appiattiti, su questi oceani di erica, dove un raro incidente, una quercia rinsecchita, una palude bluastra, una frana di sabbie incolori, interrompevano appena l'immensità indigente. Speravo anche che in questo isolamento assoluto, in queste abitudini selvagge e povere che mi stavo creando, in questa lontananza da tutti i rumori della civiltà, avrei trovato l'oblio del passato, l'insensibilità del futuro. Mi rimaneva poca forza per rimpiangere, ancor meno per desiderare, volevo considerarmi morta e seppellirmi in queste rovine, per congelarmi completamente e tornare al mondo in uno stato di completa invulnerabilità. Decisi di iniziare con lo stoicismo del corpo per arrivare più sicuramente a quello dello spirito. Avevo vissuto nel lusso e volevo rendermi assolutamente insensibile per abitudine ai rigori materiali di una vita da cenobita. Ho mandato via tutti i servi inutili e ho ricevuto il mio cibo e gli oggetti assolutamente necessari alla mia esistenza solo dalle mani di una persona invisibile che ogni mattina scivolava attraverso le gallerie abbandonate del chiostro fino a una finestra fatta fuori dalla mia abitazione e si ritirava senza aver avuto la minima comunicazione diretta con me. Ridotto il consumo più frugale, costretta a lavorare per la salute della mia casa e la conservazione della mia vita, circondata da oggetti esterni di grande severità, volevo impormi una prova fisica più dura. Nella società mi ero abituata al movimento, all'attività facile e incessante che la ricchezza comporta. Amavo l'esercizio fisico veloce, le corse focose dei cavalli, i viaggi, l'aria aperta, la caccia rumorosa. Mi sono inventata di mortificare la mia carne e di spegnere il calore del mio cervello sottoponendomi a una claustrazione volontaria. Nella mia immaginazione ho sollevato le mura crollate dell'abbazia, ho circondato il cortile aperto a tutti i venti con una barriera invisibile e sacra, ho posto dei limiti ai miei passi e ho misurato lo spazio in cui volevo rinchiudermi per un anno intero. Nei giorni in cui mi sentivo così inquieta da non riuscire più a riconoscere la linea di confine immaginaria tracciata intorno alla mia prigione, la stabilivo con segni visibili. Strappai i lunghi rami di edera e di clematis dai muri decrepiti e li depositai a terra nei punti che mi ero vietata di attraversare. Poi, rassicurata dalla paura di infrangere il mio giuramento, mi sono sentita rinchiusa nel mio recinto con la stessa severità con cui sarei stata rinchiusa nella Bastiglia. Ci fu un periodo di rassegnazione e puntualità che mi fece riposare dalle sofferenze passate. Una grande calma mi assalì. Il mio corpo era indurito dalle privazioni, mentre la mia mente si addormentava pacificamente sotto l'influenza di un proposito ben fissato. Ma accadde che le mie facoltà, rinnovate dal riposo, si risvegliarono gradualmente e chiesero impetuosamente di essere esercitate. Volendo spegnerla, avevo aumentato la mia potenza. Coprendo di cenere una scintilla morente, avevo conservato i suoi principi vitali, avevo fatto divampare un fuoco abbastanza intenso da produrre una vasta conflagrazione. Sentendomi rinata, non mi spaventai abbastanza, non mi reprimetti al ricordo delle sentenze che avevo pronunciate sulla mia tomba. Questo duro lavoro avrebbe dovuto essere dedicato a distruggere l'importanza di tutte le cose ai miei occhi, a rendere nullo qualsiasi effetto esterno sui miei sensi. Invece, la solitudine, la fantasticheria, mi hanno dato nuovi sensi e facoltà che non sapevo di avere. Non ho cercato di soffocarli per principio, perché credevo che avrebbero compensato quelli che mi avevano portato fuori strada. Ho accettato tutto come una benedizione del cielo, mentre avrei dovuto respingerle come un nuovo suggerimento dell'inferno. La poesia tornò nel mio cervello, ma era ingannevole. Assunse altri colori e forme e abbellì cose che fino ad allora avevo ritenuto di poco o nessun valore. Non mi era venuto in mente che un'indifferenza inattiva nei confronti di alcuni aspetti della vita potesse ispirarmi desiderio e interesse per cose che in precedenza erano passate inosservate. Eppure, questo è ciò che mi è successo. La regolarità che avevo abbracciata come si fa con un cilicio è diventata per me buona e morbida come un letto soffice. Provavo un fiero piacere nel contemplare questa obbedienza passiva di una parte di me e questo potere prolungato dell'altra, questa santa abnegazione della materia e questo magnifico regno della volontà calma e persistente. Una volta nei miei studi avevo disprezzato questa regola. Imponendola a me stessa nel mio ritiro, mi ero illusa che i miei pensieri avrebbero perso vigore, la loro forza raddoppiò man mano che si organizzavano meglio nel mio cervello. Dopo aver vagato a lungo in un mondo di percezioni vaghe, si svilupparono tornando alla fonte di ogni cosa e assunsero un'energia singolare nell'abitudine e nella necessità di ricerca. Questa fu la mia più grande sfortuna. Arrivai allo scetticismo attraverso la poesia, al dubbio attraverso l'entusiasmo e così lo studio sistematico della natura mi portò a lodare Dio e a bestemmiarlo allo stesso modo. In precedenza avevo cercato nelle sue opere solo il sentimento dell'ammirazione. La mia poesia compiaciuta rifiutava gli orrendi eccessi della creazione o si sforzava di rivestirli di una grandezza oscura e selvaggia. Quando ho cominciato a esaminare la natura con più attenzione, a sfogliarla nei suoi vari aspetti con un occhio freddo e un pensiero imparziale di descrizione, ho trovato il genio che aveva presieduto alla creazione più ingegnosa, più colta, più immensa. Mi inginocchiai, penetrata da una fede più viva, e benedicendo l'autore di questo nuovo universo per me, lo pregai di rivelarsi di nuovo. Continuai a imparare e ad analizzare, ma la scienza è un abisso che va scavato con cautela. Quando, dopo aver esaminato con ebbrezza la magnificenza dei colori e delle forme che contribuiscono alla formazione dell'universo, vidi ciò che era incompleto, impotente e miserabile in ogni classe di esseri, quando riconobbi che la bellezza era compensata in alcuni dalla debolezza, che in altri dalla la stupidità distruggeva i vantaggi della forza, che nessuno era organizzato per la sicurezza o per il completo godimento, che tutti avevano una missione di sventura da compiere sulla terra e che una necessità fatale presiedeva a questa spaventosa gara di sofferenze, il terrore mi colse, sentii per un attimo il bisogno di negare Dio per non essere costretta a odiarlo. Poi gli raccontai che, esaminando la mia forza, avevo trovato un principio divino in quella ricchezza di energia fisica che negli animali sopporta le inclemenze della natura. in quella forza di orgoglio o di devozione che nell'essere umano sfida o accetta gli impietosi decreti della divinità. Divisa tra fede e ateismo, persi il mio riposo. Più volte in un giorno passai da un'indole tenera a una odiosa. Quando si è riusciti a porsi ai limiti della negazione e dell'affermazione, quando si crede di essere arrivati alla saggezza, si è molto vicini alla follia. Perché l'unico mezzo per avanzare è la perfezione, che è impossibile, o la ragione istintiva, che non essendo soggetta a riflessione, può portare al delirio. Caddi, quindi, in una violenta agitazione. E poiché ogni sofferenza umana ama contemplare e lamentarsi, la pericolosa poesia tornò a frapporsi tra me e gli oggetti del mio esame. Essendo l'effetto del senso poetico principalmente esagerato, tutti i mali si ingigantirono intorno a me e tutti i beni furono rivelati da emozioni così vivide da assomigliare al dolore. Il dolore stesso, apparendo a me sotto un aspetto più ampio e terribile, scavò in me profondi abissi, dove affondarono i miei vani sogni di saggezza, le mie vane speranze di riposo. A volte andavo a guardare il tramonto dall'alto di una terrazza semicrollata, una parte della quale si ergeva ancora circondata e come trasportata da quelle mostruose sculture con cui il cattolicesimo un tempo rivestiva i luoghi di culto. Sotto di me queste strane allegorie allungavano le loro teste annerite dal tempo e sembravano, come me, protese verso la pianura, osservando in silenzio lo scorrere delle onde dei secoli e delle generazioni. Questi guerrieri, coperti di squame, queste lucertole dalla proboscide orrenda, queste chimere piene di angoscia, tutti questi emblemi del peccato, dell'illusione e della sofferenza vivevano con me di una vita fatale, inerte, indistruttibile. Quando uno dei raggi rossi del tramonto si posò sulle loro forme rozze e capricciose, mi sembrò di vedere i loro fianchi gonfiarsi, le loro pinne spinose dilatarsi, i loro volti orribili contrarsi in nuove torture. E contemplando i loro corpi impegnati in queste immense masse di pietra che né la mano dell'uomo né quella del tempo erano riuscite a scuotere, mi identificavo con queste immagini di un'eterna lotta tra dolore e necessità, tra rabbia e impotenza. Molto al di sotto delle masse grigie e spigolose del monastero, l'opaca pianura dispiegava le sue infinite prospettive. Il sole, mentre sprofondava, proiettava lo splendore del suo vasto bagliore. Quando fu lentamente scomparso dietro i limiti inafferrabili dell'orizzonte, nel cielo si alzarono nebbie bluastre, leggermente violacee, e la pianura nera sembrava un immenso sudario steso sotto i miei piedi. Il vento piegava la morbida erica e la faceva ondeggiare come un lago. Spesso in questa profondità sconfinata non c'era altro suono che quello di un ruscello che fremeva tra le pietre arenarie, il gracchiare degli uccelli e la voce delle brezze chiuse e lamentose sotto le arcate del chiostro. Raramente una mucca randagia veniva, preoccupata e ululante, a gironzolare tra queste rovine a dare un'occhiata selvaggia alle terre incolte e senza tetto in cui si era incautamente avventurata. Una volta venne un bambino, guidato dal suono della campana, a prendere una delle sue capre nel cortile. Mi nascosi perché non mi vedesse. La notte scendeva sempre più scura sotto le gallerie umide e sonore. Il giovane pastore si fermò dapprima, come colpito dal terrore per il rumore dei suoi passi che risuonavano sotto le volte, poi, ripresosi dalla sorpresa, si addentrò cantando nel luogo dove la sua capra stava assaporando la vegetazione salata che cresce tra le macerie. Il movimento di una persona diversa da me in questo santuario mi era odioso, il rumore della sabbia che gridava sotto i suoi piedi, l'eco che rispondeva alla sua voce mi sembravano tanti insulti e profanazioni per questo tempio il cui culto avevo misteriosamente innalzato, dove da sola ai piedi di Dio avevo ristabilito il commercio dell'anima con il cielo. In primavera quando le ginestre selvatiche si coprivano di fiori, quando i salici esalavano il loro dolce profumo intorno agli stagni e le rondini riempivano di movimento e di rumore gli spazi dell'aria, e le alture più inaccessibili delle torri, la campagna assumeva aspetti di infinita maestosità e profumi di inebriante voluttà. La voce lontana delle mandrie e dei cani veniva più spesso a risvegliare gli echi delle rovine e l'allodola intonava canti dolci e teneri come inni al mattino. Le pareti del monastero si rivestirono di una nuova veste. Le erbe viperine crescevano sontuose, in ciuffi verdi nelle fessure umide, viole gialle profumavano le navate e nel giardino abbandonato alcuni alberi da frutto centenari, sopravvissuti alla devastazione, ornavano con i loro rami angolosi e ricoperti di muschio di gemme bianche e rosa. Perfino i pozzi erano coperti dai ricchi e variegati tappeti delle microscopiche piante che, generate dall'umidità, colorano le rovine e le costruzioni sotterranee. Avevo studiato il mistero di tutte queste riproduzioni animali e vegetali e pensavo di aver congelato la mia immaginazione con l'analisi. Ma riapparendo più bella e più giovane, la natura mi aveva fatto sentire il suo potere, rideva delle mie orgogliose fatiche e sottometteva quelle facoltà che si vantavano di appartenere esclusivamente alla scienza. È un errore credere che la scienza soffochi l'ammirazione e che l'occhio del poeta si spenga quando quello del naturalista abbraccia un orizzonte più ampio. L'esame, che distrugge tante convinzioni, fa nascere anche nuove condizioni con la luce. Lo studio mi aveva rivelato dei tesori nello stesso momento in cui aveva eliminato le illusioni. I miei sensi, lungi dall'essere impoveriti, si sono così rinnovati. Gli splendori e i profumi della primavera, gli influssi eccitanti di un sole caldo e di un'aria pura, l'inspiegabile simpatia che coglie l'uomo nel momento in cui la terra che lavora sembra esalare vita e amore da ogni poro, mi gettarono in nuove ansie. Sentii tutte le punture dell'ansia, desideri vaghi e impotenti, mi sembrò di diventare una donna, di tornare alla vita, di poter ancora amare e d'ora in poi sentire. Un secondo giovane, più vigoroso e febbrile del primo, mi fece pulsare il petto con una violenza sconosciuta. Ero allo stesso tempo spaventata e gioiosa per ciò che stava accadendo dentro di me e mi abbandonai a questo tumulto estatico senza sapere quale sarebbe stato il risveglio. Ma presto la paura tornò a farsi sentire. Ricordai le deplorevoli disgrazie della mia esperienza passata. I disastri del passato mi avevano resa incapace di aver fiducia nel futuro. Avevo tutto da temere, uomini, cose e soprattutto me stessa. Gli uomini non mi avrebbero capita e le cose mi avrebbero ferita continuamente perché non avrei mai potuto elevarmi o abbassarmi a livello degli uomini e delle cose. E allora la noia del presente mi afferrò, mi abbracciò con tutto il suo peso. Il mio ritiro, così austero, così poetico e così bello, in certi giorni mi sembrava spaventoso. Il voto che mi teneva lì volontariamente mi si presentava come un'orribile necessità. Ho subito in questi monasteri senza recinto e senza porte le stesse torture di un religioso prigioniero dietro fossati e cancelli. In queste alternanze di desiderio e paura, in questa lotta violenta della mia volontà contro se stessa, consumai le mie forze mentre si rinnovavano, soffersi la fatica e lo scoraggiamento dell'esperienza senza provare nulla. Quando il bisogno di agire e di vivere diventò troppo intenso, lasciai che mi divorasse, fino a esaurirsi. Intere notti passai nel lavoro di rassegnazione, sdraiata sulle pietre delle tombe, mi abbandonai alla furia della mia immaginazione, sognavo l'abbraccio di un demone sconosciuto, sentivo il suo respiro caldo bruciarmi il petto e mi scavavo le unghie nelle spalle, credendo di poter sentire l'impronta dei suoi denti. Chiamai il piacere al prezzo della dannazione eterna, come facevano gli uomini in quei giorni di ingenua poesia, quando il demone più potente, più generoso con i vivi di Dio stesso, si offriva loro come ultima speranza, come un usuraio che ritarda e consuma la rovina. Spesso un temporale mi sorprendeva nel recinto aperto della cappella. Mi imposi di sopportarlo e sperai di trovare sollievo in esso. A volte, quando arrivava la luce del giorno, mi trovava distrutta dalla fatica, più pallida dell'alba, con i vestiti sporchi e senza la forza di tirare su i capelli sparsi dove scorreva l'acqua. Spesso cercavo di sfogarmi gridando di dolore e di rabbia. Gli uccelli notturni volavano via, spaventati, o mi rispondevano con gemiti selvaggi. Il rumore, ripetuto da una volta all'altra, scuoteva le rovine cadenti e la ghiaia che si sgretolava dai tetti sembrava annunciare la caduta dell'edificio sulla mia testa. Oh, come vorrei che fosse stato così! Raddoppiai le mie grida e quelle pareti che mi restituivano il suono della mia voce più terribile e più straziante. Sembravano abitate da legioni di dannati, desiderosi di rispondermi e di unirsi a me nella bestemmia. A quelle notti terribili seguirono giorni di terribile torpore. Quando riuscivo a fissare il sonno per qualche ora, un profondo torpore seguiva il mio risveglio e mi rendeva incapace per un giorno intero di qualsiasi volontà o interesse. In quei momenti la mia vita assomigliava a quella di persone religiose o dall'abitudine e dalla sottomissione. Camminavo lentamente e per un tempo limitato. Cantavo salmi la cui armonia intorpidiva la mia sofferenza, senza che dalle mie labbra arrivasse alcun significato alla mia anima. Mi piaceva, sì, mi piaceva far crescere i fiori sulle scogliere di queste aspre costruzioni dove trovavano sabbia e cemento polverizzato per affondare le loro radici. Osservavo il lavoro della rondine e difendevo il suo nido dall'invasione del passero e della cincia allegra. Poi tutte le clamorose passioni umane svanirono dalla mia persona. Seguii meccanicamente e per abitudine la linea di prigionia volontaria da me tracciata sulla sabbia e non pensai più ad attraversarla che se l'universo non fosse esistito dall'altra parte. Ho avuto anche giorni di calma e di ragione ben sentita. La religione di Cristo, che ho conformato alla mia intelligenza e ai miei bisogni, aveva versato una dolcezza soave, una vera tenerezza sulle ferite della mia anima. A dire il vero, non mi sono mai preoccupata molto se il grado di divinità conferito all'anima umana autorizzasse o meno gli esseri umani a definirsi profeti, semidei o redentori. Bacco, Mosè, Confucio, Maometto, Lutero hanno compiuto grandi missioni sulla Terra e hanno dato violenti scossoni alla marcia dello spirito umano nel corso dei secoli. Erano come noi, questi uomini, attraverso i quali pensiamo, attraverso i quali viviamo oggi. Questi colossi, il cui potere morale organizzava le società, non erano forse di una natura più eccellente, più pura, più celeste della nostra? Se non neghiamo Dio e l'essenza divina dell'uomo intellettuale, abbiamo il diritto di negare le sue opere più belle e di ignorarle. Colui che è nato tra gli uomini e ha vissuto senza debolezza e senza peccato, colui che ha dettato il Vangelo e ha trasformato la morale umana per il resto dei secoli, non possiamo dire che sia veramente il figlio di Dio? Dio ci manda alternativamente uomini potenti per il male e per il bene. La volontà suprema che governa l'universo, quando le piace, fa fare allo spirito umano un immenso passo avanti o indietro in una parte del globo, e può, senza aspettare l'austero incedere dei secoli e l'opera tardiva delle cause naturali, compiere questi passaggi improvvisi con il braccio o la parola di un uomo creato apposta. Che Gesù venga dunque a mettere il suo piede nudo e polveroso sul diadema d'oro dei farisei, che infranga l'antica legge e annunci ai secoli futuri la grande legge della spiritualità necessaria per rigenerare una razza snervata, che si erga come un gigante nella storia degli uomini e la divida in due, il regno dei sensi e il regno delle idee, che annienta con la sua mano inflessibile tutta la potenza animale dell'uomo e apre al suo spirito una nuova carriera, immensa, incomprensibile, eterna forse. Se credete in Dio, non cadrete in ginocchio e non direte: questo è il Verbo che era con Dio fin dall'inizio dei tempi, è uscito da Dio, ritorna a Lui, è con Lui per sempre, seduto alla sua destra, perché ha riscattato gli uomini. Dio che ha mandato Gesù dal cielo, Gesù che era Dio sulla terra e lo Spirito di Dio che era in Gesù e che riempiva lo spazio tra Gesù e Dio, non è forse una Trinità semplice, indivisibile, necessaria per l'esistenza di Cristo e del suo regno? Ogni uomo che crede e prega, ogni uomo che la fede mette in comunione con Dio non offre forse in sé un riflesso di questa misteriosa Trinità più o meno indebolito, secondo la forza delle rivelazioni dello spirito celeste allo spirito umano? L'anima, l'impulso dell'anima verso una meta increata e lo scopo misterioso di questo impulso sublime non sono forse rivelati dal divino in tre insegnamenti distinti? Forza, lotta e conquista? Questo triplice simbolo della divinità, tratteggiato nell'intera umanità, potrebbe verificarsi una volta, splendido e completo, tra Gesù, il Padre del mondo, e lo Spirito Santo, rappresentato dalla fede cattolica sotto forma di colomba, a significare che l'amore è l'anima dell'universo. Queste allegorie mistiche mi fanno sorridere, rispose Pulcherì.